Allora, un'altra iniziativa, intanto sono fatte le 13, un'altra iniziativa per questo sabato per parlare di morti per il lavoro. Quest'oggi, questo pomeriggio alle 19, nella città dell'Alta Economia interverranno operai dello spettacolo. Sappiamo le morti che hanno caratterizzato questo tipo di lavoratori, soprattutto in questi ultimi tempi, e forse prima lo stesso, ma forse si sapevano di meno. Insomma, il discorso dei morti sul lavoro in tutti i settori è sempre più grave, dipende da tanti fattori, la precarietà, i ritmi, l'intensità, e insomma ne parliamo allora a proposito di questa iniziativa di quest'oggi con una compagna che salutiamo. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao Alessandra. Ciao a tutti e a tutte. Allora, intanto puoi presentare l'associazione di cui fai parte, così sì. Dimmi, dici. Sì. Allora, io sono Alessandra dell'Associazione Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro Ruggero Toffoluzzi di Piombino, diciamo ha sede a Piombino ma poi è di carattere nazionale. Faccio una breve introduzione e spiego chi era Ruggero Toffoluzzi. Era un operaio della Magona, che oggi è ArcelorMittal, quindi ha un altro nome, e che è morto nel 1998, 17 marzo 1998, stritolato da un macchinario. Da allora i familiari hanno formato questa associazione e da 14 anni si batte proprio per divulgare la cultura della sicurezza sul lavoro. Ci tengo a dire, e comunque dai microfoni che della radio stessa si è detto più volte, poi anche i stessi compagni del Comitato Non Morti Lavoro lo ripetono anche sul blog stesso, che veramente parlare di sicurezza, cioè quando si parla di sicurezza non si può prescindere dal parlare proprio del lavoro e quindi rispettare tutti i diritti, diciamo, sacrosanti dei lavoratori. Quindi chiaramente il discorso della sicurezza è indissolubilmente legato al discorso del precariato, della precarietà, e finché si vivrà di precariato, e oggi purtroppo, insomma, come sappiamo, le riforme lo istituzionalizzano a pieno, finché si parlerà comunque del precariato continueranno ad esserci le morti sul lavoro, che io chiamerei proprio stragi sul lavoro, che comunque le cifre parlano, diciamo, sono preoccupanti, no? Si dice che è una media di 4 lavoratori o lavoratrici al giorno, in realtà poi si sa che non si considerano chiaramente gli immigranti non, diciamo, regolarizzati, non si tengono in conto anche delle morti in itinere e così via, quindi sono comunque delle cifre a parte fredde, ma delle statistiche comunque da prendere sempre con cautela. Comunque, parlando dell'iniziativa di oggi, alle 19, dicevi tu Salvatore, ci sarà il secondo appuntamento di questa rassegna che abbiamo voluto chiamare Non chiamate le morti bianche, chiaramente ricordando sempre una campagna che è stata fatta, diciamo, sia tramite i mass media, diciamo, tra virgolette, giusti, direi, sia tramite la rete, ossia di non chiaramente chiamare le morti sul lavoro morti bianche, come le morti sulla culla, che erano morti innocenti, morti senza un colpevole, ma di chiamarle col loro nome, ossia come omicidi sul lavoro. Perché questa, i colpevoli ce l'hanno, e come? Ce l'hanno, sì, e poi spesso e volentieri, come ahimè sappiamo, non pagano, non pagano quasi mai, tranne, diciamo, quelle diciamo, casi eccezionali, come ad esempio nel caso della ThyssenKrupp e dell'Eternit. Certo. Quindi, diciamo, bisogna anche non ringraziare, però comunque menzionare, diciamo, PM come Guariniello e il suo staff, ovviamente, non solo lui, che poi in Italia c'è sempre questo leaderismo, no? Però invece, diciamo, dietro Guariniello c'è tutto uno staff di gente in gamba che comunque ha fatto un lavoro eccezionale e che porta, diciamo, ad avere giustizia. Poi ricorderei anche Campello sul Clitunno, comunque la tragedia, no, dell'Umbria Oli, per cui, diciamo, lo stesso amministratore delegato ha chiesto, lo sapete, l'abbiamo detto anche più volte sempre dai vostri microfoni, aveva chiesto, mi sembra, una cosa come 35 milioni di euro di risarcimento ai familiari delle vittime e allo stesso sopravvissuto, perché dichiarava, insomma, diciamo, che avessero colpevolizzato, di aver leso l'immagine dell'azienda. Poi, diciamo, recentemente invece c'è stata la sentenza, una sentenza lieve, però che comunque ha condannato l'amministratore delegato. Quindi, diciamo, scampoli di giustizia ce ne sono, ma ovviamente molto, molto, molto sporadici. E quello che si vuole dire oggi invece con gli operai dello spettacolo, dicevo, è proprio questo, che finché non si regolarizzerà chiaramente la situazione contrattuale dei lavoratori, finché non si farà, cioè non si porterà chiaramente la lotta, non si rivendicherà dichiarato, diciamo, anche in maniera unitaria, no? Cioè, cosa che si tenta di fare, diciamo, lo tentano anche di fare i ferrovieri, ma anche gli stessi operatori dello spettacolo, però che non sarà chiaro che non si può non parlare, diciamo, che parlando di sicurezza non si può non parlare chiaramente di lavoro, non si può non contestare tutto, diciamo, questi attacchi che vengono fatti ai diritti dei lavoratori conquistati, no? con tanto diciamo sangue, e come, diciamo, chiaramente l'articolo 18. Comunque questo per dire che oggi prima ci sarà la proiezione del corto di Valerio Massandrea, 3,87 si riferisce sempre alla media degli operai morti al giorno, e è un cortometraggio del 2005 che vedeva, vabbè, anche la partecipazione di Ermano, Jasmine Trinca. E dopo, diciamo, il corto ci sarà la discussione proprio, vi dicevo, con i lavoratori stessi, che si stanno, tra l'altro so che lunedì scorso proprio dai vostri microfoni ne hanno parlato pure alla trasmissione Tappabuchi. E vi dicevo, loro si stanno organizzando e questo sarà un momento, diciamo, uno dei tanti momenti loro anche di confronto. Spero, insomma, che verranno anche altre lavoratrici, e interverrà pure anche Roberto Ciccarelli, un giornalista freelance comunque che ha scritto anche nel manifesto e che ha fatto un'inchiesta molto interessante sulla loro situazione, quindi la situazione dei diggers e di un mondo comunque sfruttato, di un mondo, diciamo, poi ne parleranno bene oggi, comunque si leggerà anche l'inchiesta dello stesso Ciccarelli, spiega comunque un po' anche le mille contraddizioni che ci sono di gente costretta ad avere la partita IVA, poi però invece costretta ad avere sempre dei datori di lavoro, sempre comunque, diciamo, una situazione molto confusa, poi chiaramente a turni massacranti di lavoro che chiaramente poi portano a infortuni, a facili distrazioni e chiaramente poi alla morte. Certo. Non che nel caso poi di Matteo Armellini sia attribuibile alla distrazione, perché poi si parla di un operaio specializzato, chiaramente stanno facendo le indagini, però pure in quel caso comunque è l'ennesimo caso di una mancanza di controllo, di un'ennesima superficialità di chi comunque ha dato l'ok per i lavori, per il concerto di Laura Pausini. E quindi, diciamo, poi ci sarà anche l'intervento di Claudio Petrelli, un ispettore del lavoro che spesso interviene, diciamo, in queste iniziative, perché lui stesso è uno, pensate, dei pochissimi ispettori che in tutto il Lazio, credo che siano qualcosa come 15 o al massimo 16, sì. Ispettori in tutto il Lazio che fanno questi controlli, dove chiaramente vengono chiamati, quindi nei cantieri edili o nelle ferrovie, e, diciamo, lui stesso comunque poi parlerà a questi operai dello spettacolo, metterà comunque a disposizione la sua esperienza. Comunque, quindi, invito tutti e tutte a partecipare, proprio perché non solo non si deve morire più di lavoro, ma soprattutto per, diciamo, combattere questa, diciamo, direi proprio piaga, questa pestilenza proprio del precariato. Certo, e sono legato al precariato, alla paura, sì, di perdere il lavoro, ai ritmi forsennati, sì, dovuti proprio alla paura del perdere il lavoro, l'assenza, sì, di conflitto dovuta alle contrattazioni, sì, ai contratti, che ha provocato questa. È chiaro che il conflitto alto permette un controllo sulle dinamiche del lavoro. Certo. Un'assenza di, certo, aggiungerei, Salvatore, anche ovviamente alla colpevole omertà dei sindacati. Esatto, perché adesso, certo, non è questa la sede per fare processi di indagati, no, però spesso e volentieri, anzi io spesso ho partecipato comunque anche a assemblee, eccetera, in cui gli interventi più anche insipidi o comunque anche più diciamo anche sì retorici erano gli stessi sindacalisti, certo, comunque parlo di sindacati confederali, sì, che sì, spesso e volentieri, vabbè, questa comunque è una storia che proprio si conosce, però secondo me va denunciata. Va denunciata perché in omaggio alla ripresa dell'economia, dello sviluppo a qualunque costo, è chiaro che mettono in discussione la sicurezza del lavoro in primo luogo. Certo, certo. No, ma poi è chiaro, infatti, anche perché poi in una situazione così tragica, così, fare scioperi, anche quando succedono spesso, insomma, le morti nelle fabbriche, nei cantieri, eccetera, poi fare comunque scioperi cosiddetti bianchi oppure fare, no, scioperi di 2 o 3 ore non ha senso, perché spesso la stessa esperienza di Dante De Angeli si insegna, infatti. Infatti, infatti, è così. Infatti in ferrovia gli incidenti sono aumentati, sì, da quando le ferrovie sono privatizzate, quindi da quando si è perso quel controllo da parte, certo, delle forze operaie sull'organizzazione del lavoro. È tutto, certo, lì il segreto. E infatti bisogna anche rimettere in discussione il concetto di sviluppo, di ripresa dell'economia, provando proprio in questa crisi a ricalibrarla a misura delle condizioni di lavoro. Questa è una battaglia generale che dobbiamo fare. Ma infatti è per questo che a me preme molto sempre ripetere che quando si parla di sicurezza non può essere un discorso a sé. Pure gli stessi operai dello spettacolo hanno denunciato il fatto che ultimamente hanno fatto dei tavoli di trattativa, però il tavolo sul contratto collettivo nazionale del lavoro separato da quello della sicurezza, e questo per me è assurdo, ma anche loro stessi ovviamente erano contrari, cioè è veramente allucinante, perché vuol dire proprio allora non avere anche una prospettiva, cioè di un percorso di lotta, diciamo, chiara, no? Perché non puoi separare, se non parli di un contratto eccetera, poi come puoi rivendicare i diritti sulla sicurezza, sull'orario di lavoro, no? Sulla malattia eccetera. Cioè, non è solo un casco che può salvare dall'incidente, è tutto l'insieme, è chiaro. Certo. E poi ricordare che ovviamente poi colpevole anche chiaramente tutta una campagna pubblicitaria anche dello stesso governo, ma sia precedente a quello Monti, ma anche quello precedente anche quello di Berlusconi, che comunque insistono sempre col dire che la colpa, che la responsabilità è del lavoratore, no? Vi ricordate quello sceno, quello spot sceno, la sicurezza la vuole chi si vuole, la pretende, sì, chi si vuole bene. Cioè, questo hanno speso soldi, questa è una cultura, un linguaggio ovviamente che è da combattere, da denunciare, ma soprattutto pericoloso, secondo me, criminale. Certo. Perché mentre è come comunque chiaramente quello che si insinua quando c'è uno stupro di una donna, no? Che la donna ha ammiccato, che la donna c'è stata, che la donna c'aveva la gonna, eccetera, eccetera. Così ogni volta che c'è una morte sul lavoro c'è sempre comunque anche dalla signora al mercato parlando così. C'è il commento, però che ha fatto lui, però che ha fatto quel lavoratore così, però che lo dica un governo che faccia addirittura uno spot dicendo la sicurezza la vuole chi la pretende, chi si vuole bene, che chiaramente è un messaggio chiaro, no? Molto chiaro, quindi, certo. Si deresponsabilizzano loro e la danno la colpa, certo, al lavoratore. È chiaro che bisogna ribaltare proprio la concezione del lavoro, dello sviluppo e soprattutto, certo, appunto del fatto che l'economia dovrebbe essere al servizio degli uomini e delle donne, certo, non il contrario, gli uomini e le donne al servizio dell'economia. È certo, un paradigma da ribaltare completamente. Sono d'accordo. Sì, e poi abbiamo le battaglie da fare su tutti i piani, sul piano culturale, sul piano del linguaggio, sul piano chiaramente politico in primis, però è una battaglia, diciamo, che tocca più livelli, certo, quindi cioè, quello che disse Tremonti, la sicurezza è un lusso, cioè loro lo confermano, chiaro. Ogni giorno, ma ovviamente è questo che va combattuto, cioè, non deve essere un lusso, okay, ma... una priorità, è la priorità questa deve è essere. È la priorità, il lavoro e la sicurezza, certo. Che sono indissolubilmente legati, certo. Bene, quindi, Alessandra, certo, ecco, allora dove si svolge questa cosa, se ci ricapitoli brevemente il luogo? Allora, si svolge alla Città dell'Altra Economia, all'ex, certo, mattatoio, esatto, a Largo Dino Frisullo, e precisamente nella sala titolata Renato Biagetti. È chiaro, altro quindi, morto sul lavoro, un compagno morto sul lavoro. Sì, alle 19... ci sarà, dicevo, la proiezione del percorso di Massandrea, che comunque dura 12 minuti, e poi ci sarà la discussione con gli operai dello spettacolo, con Claudio Petrelli e con, dicevo, l'ispettore del lavoro, e con Roberto Ciccarelli, il giornalista. Quindi siete invitati tutti e tutte, e poi chiaramente l'obiettivo è quello di continuare, poi di fare un ciclo, quindi discussione, poi culminarla si spera con una manifestazione. Questo è da vedere anche in base alla partecipazione. Comunque io spero, insomma, che il messaggio sia arrivato, che veniate. D'accordo. Ti ringraziamo e ci si vede questa sera all'Altra Economia. Perfetto, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao.